stanza vuota, stesa sotto lunghe ciglia, ruota nei colori del suo nuovo sogno. Onda blu di lago gioca sopra i sassi, tra capelli e cielo la sua danza vive. Urla il sole sullo scoglio, tra le barche alla deriva, spettro bianco dall'aurora, il mattino la rapisce, rapisce, rapisce. Specchia il suo narciso dentro i cerchi d'acqua, bianco cigno in fuga, libera le ali, ebra di vapori, canta i veli nel canneto, nella schiuma bianca, Ofelia le sorride, urla il sole tra le barche, sullo scoglio. Bianco la rapisce. Urla il sole